con l'attrice Giulia Santilli, che sarà in scena a Roma, all'Altrove Teatro Studio, dal 18 al 20 gennaio, con lo spettacolo Ci chiamarono tutti Alda. Giulia, ben trovata. Ciao, ben trovato a te, ciao a tutti. Lo descrivi? Lo descriverò un po' tecnicamente, semplicemente perché è uno spettacolo basato sull'emozione, tanto sull'amore, l'amore tanto cercato e purtroppo poco trovato da parte della poetessa Alda Merini. Diciamo che la struttura sono tanti quadri, quindi tante scene, tanti quadri, uno dopo l'altro, di diversi momenti dei 10 anni di manicomio che la Merini ha subito e di conseguenza ovviamente vissuto, metabolizzato. Quindi nelle interviste che si trovano su YouTube lei diciamo che sta bene nella misura in cui ha metabolizzato questa esperienza molto brutta, molto pesante e l'ha fatta propria e adesso godeva, insomma, nelle interviste di una vecchiaia invece molto felice e molto serena, che è un po' quello che dovremmo fare tutti, ecco. Quindi vuole essere uno spettacolo che punti a una riflessione che anche se si attraversano, no, dei momenti bui, che può essere da una, passatemi la parola, banale rottura di un rapporto a malattie o traumi più importanti, comunque il positivo dentro c'è. Com'è nata l'idea di farne uno spettacolo? È nata da Fabio Appetito, che è l'autore di questo testo. Lui è uno studioso di Alda Merini, poi giovane, ha un anno più di me, ha 31 anni, però qualche anno fa, mentre si stava laureando e quindi si è un po' perso da poeta, in realtà anche lui qual è, nelle parole di Alda, e ha deciso di renderle omaggio inizialmente con la sua tesi con cui ha vinto il premio internazionale Alda Merini. E poi fare una sorta di, diciamo, riassunto in un certo senso di questa sua tesi, che sarebbe stata troppo importante, ovviamente, da portare a teatro, e l'ha reso questo spettacolo, questo testo, ecco, per uno spettacolo teatrale, perché fosse detto, perché diventasse tridimensionale, ecco. Cosa ti ha convinto maggiormente del testo? Dalla prima all'ultima parola, Pino Insegno, che fu il primo produttore di questo spettacolo, me lo propose 2 anni fa, era il 27 dicembre, e voleva che lo portassimo in scena al Comet Off 6, 7, 8 gennaio. E gli ho detto: tu sei pazzo, non esiste, cioè 10 giorni per mettere in piedi uno spettacolo in mezzo alle feste, non posso. E lui mi disse: leggilo e ne riparliamo. Io lo lessi quella notte. E la mattina dopo chiamai Fabio Appetito e gli dissi: a che ora puoi essere a casa mia? E da lì è partito questo viaggio, che oramai appunto ha 2 anni, di questo testo. È tutto, è la sua potenza, è la scomodità di questa poesia di Alda che Fabio è riuscito a tradurre in prosa e con la sua semplicità arriva al cervello, al cuore, al fegato, a tutto. È E quello. di Alda Merini che idea ti sei fatta? Ma io la reputo straordinaria, straordinaria proprio nel senso di extraordinaria, perché lei è stata capace di non mollare mai, nel vero senso della parola, cioè per me è un'eroina, è incredibile la forza che ha tirato fuori questa persona, il fatto che non abbia lasciato nulla al caso, il fatto che abbia vissuto qui e ora ogni momento della sua vita, che non abbia mai avuto paura di niente e di nessuno, neanche quando era in manicomio, quindi io la trovo incredibile. Il titolo? Ci chiamarono tutti Alda perché comunque si rifà a un essere tutti uno e uno tutti, che non è alla uno nessuno e 100.000 Pirandelliano, però è proprio che possiamo tutti essere un'unica voce, tutti gridare ad un'unica voce, pur essendo anche tutti diversi. Dopo queste date romane continuerà il suo percorso, lo spettacolo? Noi speriamo, ovviamente siamo sempre fiduciosi anche a portarlo fuori da Roma, perché poi ecco, io sono romana, Fabio è di Cori, che è un paese in provincia di Latina, ci piacerebbe anche un po' uscire e portarlo su altre piazze. Vediamo, Vediamo. dipende ovviamente dal pubblico, dipende dai teatri, dipende. E allora ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo Ci chiamarono tutti Alda a Roma, all'Altrove Teatro Studio, dal 18 al 20 gennaio. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Giulia Santilli. Un abbraccio, in Grazie bocca al lupo, a risentirci presto. crepi. Un bacio grande a tutti.